Mix 24, musica e storia. Buongiorno e bentornati su Mix 24 Musica e Storia. Io sono ancora Alessandra Fiori. E io sono Franco Schipani. Ciao a tutti, ciao Ale. Franchi, siamo arrivati nel 2008. Nel 2008. E allora iniziamo come al solito con il brano più di successo di quest'anno. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura. A te, Jovanotti, che è la canzone che lui ha dedicato alla moglie. Alessandra, ti hanno mai dedicato una canzone? No, non è che te l'hanno scritto dicendo: quando senti questa canzone è la nostra canzone. Ah sì, mi è capitato. Ti è capitato? Per telefono. Anzi no, me l'hanno mandata via WhatsApp. Potenza della tecnologia. E pensa che è un cantante che poi è diventato famoso, più famoso proprio quest'anno. La parola Alessandra nel titolo. Ah, Alessandra sarà sempre più bella. Che bello. Wow, pazzesco. Va bene, ha fatto un figurone. Ha fatto un figurone. Canzone è stata cantata al Festival di Sanremo del 2008, dove Jovanotti si è presentato e è intervenuto come super ospite italiano. Franchi, mi hai fregato, mi hai portato subito a Sanremo. E va bene, andiamoci, dai. Dunque, ospiti invece non cantanti in questo Festival di Sanremo sono loro. Cosa che beve tanto sesso, amore? Che la dama bianca da risvegliare di sé. Ma chi è sta dama bianca? Ma fatela finita con sta dama bianca, dai. Lo so io chi è. Ma chi è? Ma quanto sei bella, eh? Ma come io c'ho una moglie tanto bella? Perché dovevamo infiare Taormina, vi ricordatelo. Amore, ti faccio sta proposta. Ma se ti sparmo tutta da miela da caccia e poi te lecco. No vabbè, Franchi. E sono Verdone con Lagerini. Questa è la famosa scena di Miele d'Acacia. Ecco, loro ospiti, super ospiti, non cantanti ovviamente, al Festival di Sanremo del 2008, che è il festival meno visto di sempre. Ah sì? Finalmente lo puoi dire, il meno visto di sempre. Profondo perché? Rosso, perché? Profondo perché? Rosso. Perché ormai, insomma, quelli che ascoltano la musica, guardano poi le cose su internet, sono generazioni diverse. Quindi le competizioni ormai sono un po' superate. Se uno si vuole sentire della musica, la vuole scegliere, se la vuole godere, se ne va sul computer e nessuno gli rompe le scatole. YouTube. Perché i ragazzi su YouTube, insomma, in quel momento preferiscono in televisione vedere altre cose, tipo i Cesaroni su Canale 5, che ha battuto Sanremo. Hai capito. Senti, ma in questo 2008 non c'è crisi solo al Festival, Franchi. Anche il governo Prodi entra in crisi. Il ministro della giustizia Clemente Mastella si dimette. La moglie, infatti, Sandra Lonardo, è stata arrestata insieme ad altri componenti dell'Udeur, il partito di Mastella, per tentata concussione. E allora Mastella annuncia il ritiro del suo partito dalla maggioranza. E il 22 gennaio il presidente del Consiglio, Romano Prodi, si presenta alle Camere per chiedere la fiducia. In un paese legato allo Stato di diritto non sono le agenzie di stampa e neppure i dibattiti televisivi che determinano le sorti di un governo. Siete voi, colleghi deputati, che dovrete decidere e assumere limpidamente e pubblicamente le responsabilità per cui siete stati eletti. È nel Parlamento e solo nel Parlamento che si può decidere la sorte di un governo. Alla Costituzione mi richiamo dunque per chiedere a voi. Ecco, così Romano Prodi, con una stoccata forte agli organi di informazione in un dibattito che è sempre molto vivo nel nostro paese, chiede la fiducia al Parlamento, ma il Senato risponde così. Senatori presenti 319, senatori votanti 318, maggioranza 160, senatori favorevoli 156. Senatori contrari 161, senatori, per favore, togliete quella bottiglia là, non stiamo mica all'osteria. Ecco, l'osteria. Bagarre in aula, come abbiamo sentito, il Senato comunque nega la fiducia e Prodi rimette il mandato nelle mani del capo dello Stato Napolitano, che scioglie le Camere. E nel 60° anniversario della Costituzione italiana, entrata in vigore nel 1948, l'Italia va al voto. Le date fissate sono il 13 e il 14 aprile. Berlusconi e Fini rinunciano ai loro rispettivi simboli, Forza Italia e Alleanza Nazionale, e confluiscono nella lista unica del Popolo della Libertà. A sinistra, invece, Romano Prodi decide di non correre a capo della coalizione, anzi, lascia la politica. Il PD a questo punto schiera Walter Veltroni, che abbandona quindi in anticipo la poltrona al Campidoglio e si candida al leader della sinistra. Il terzo in corsa è Pier Ferdinando Casini, che guida l'Unione di Centro. Alle elezioni vince la coalizione formata dal Popolo della Libertà e dalla Lega Nord. L'8 maggio Silvio Berlusconi forma il governo e giura nelle mani del Presidente della Repubblica. Ecco la prima cosa da fare. Tra le cose che bisogna fare subito è quello di dare impulso alla produzione e ai consumi, di recuperare quella perdita di potere di acquisto che hanno subito le famiglie. Abbiamo individuato nella detassazione dei premi di produttività e degli straordinari la misura che può raggiungere questi risultati. E dovunque vai io vengo con te, baby. E allora dai, gioca con me. Fare l'amore è molto semplice, non c'è nessun perché. Prendilo con me. Vasco Rossi, gioca con me, Violet Hill dei Coldplay. Mix 24, musica e storia. Bentornati su Mix 24 Musica e Storia. Siamo nel 2008, io sono Alessandra Fiori. E io sono Franco Schipani, ciao a tutti. Franchi, sei riuscito a operazione nostalgia subito. Sì, doppio salto mortale all'indietro. Ecco, prima del break abbiamo ascoltato chiaramente questo piccolo grande amore di Claudio Baglioni, che è un po' il suo trademark. Non l'avevo riconosciuto. Non l'hai riconosciuto. Ed è stato premiato per la categoria CD. In effetti questo è uno dei suoi grandi successi della collection di quell'anno del 2008. Questo è sottofondo. Leggendario Io Vagabondo dei Nomadi, premiato per i DVD. Quindi insomma questi Win Music Awards hanno funzionato. Hanno funzionato perché, vedi, se cambi il contesto della musica può ancora funzionare. Questo show televisivo ha raccolto un lusinghiero 12% e con picchi d'ascolto intorno ai 3 milioni. Quindi, ripeto, se cambi il contesto la musica può ancora funzionare. Ah, così io ti posso dire che invece non cambio mai contesto, va bene, perché resto nella politica. E abbiamo visto che Veltroni lascia il Comune di Roma per candidarsi al leader del centrosinistra. Dunque a Roma si tengono nuove elezioni. Gli sfidanti sono Gianni Alemanno per il centrodestra e Francesco Rutelli per il centrosinistra. Il 28 aprile al ballottaggio il nuovo sindaco di Roma è Alemanno. Ecco cosa intende fare il neo sindaco. Sentiamo le sue dichiarazioni a caldo appena eletto. Appena insediato chiederò la convocazione del Consiglio Provinciale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica per individuare i primi problemi, che i primi provvedimenti necessari a dare una svolta a questa città, che oggi purtroppo è totalmente fuori controllo. Questa è la base per creare lavoro, socialità, per riportare Roma dentro l'Europa e collocarla veramente al centro del Mediterraneo. Ecco, era il 2008, lo ricordiamo, oggi sono passati 9 anni, una grande svolta, una grandissima differenza. Si nota proprio, cammini tutto, totalmente cambiato. Comunque, si vota anche in Sicilia, dove Salvatore Cuffaro, presidente della regione siciliana, anzi la regione Sicilia, si dimette per le sue vicende giudiziarie. Vince Raffaele Lombardo del Movimento per l'Autonomia. Vince su Anna Finocchiaro del PD. Infine, nel 2008, a luglio, viene approvato il lodo Alfano. Dopo che il lodo Schifani era stato dichiarato illegittimo nel 2004 dalla Corte Costituzionale, adesso il lodo Alfano impedisce alla magistratura di procedere a qualunque titolo contro le prime quattro cariche dello Stato: Presidente della Repubblica, Presidenti di Senato e Camera e Capo del Governo. Ma anche il lodo Alfano verrà dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale l'anno successivo. Quindi, Franky, tornando alle nostre classifiche, dai un nome a questa del 2008. Ma nel 2008 c'è un nome su tutti. A novembre la città si accende in un istante, il mio corpo non si veste più di voglie, e tu non sembri neanche più così forte, e come ti credevo un anno fa. Novembre, non ti scordar mai di me, della più incantevole fiaba che abbia mai scritto, un lieto fine era previsto, stai gradito. Giuseppa Gaetana Ferreri, insomma, volevano proprio Giuseppa, un maschio in famiglia. Che dici? Sì, Giuseppa sì. Gaetana. Non è male. Meglio conosciuto come Giusy. Attenzione, perché Giusy in America è un nome molto pericoloso. Lo perché? So perché mia sorella, che si chiama Giuseppina, quando lei fu negli Stati Uniti a trovarmi proprio quell'anno, io non la potevo chiamare Giusy, dovevo perché? Chiamarla Giosy. E perché? Perché Giusy è un nome da spogliarellista. Cioè, Giusy vuol dire speriamo succosa, capito? Cioè, come ti chiami? Come honey, darling, capito? Giusy, cioè, mi raccomando, Giuseppina, io ti chiamerò Giosy, non ti arrabbiare, le ho anche spiegato perché. Quindi, Giusy Ferrero, quando vai negli Stati Uniti a esibirti, fatti chiamare Giosy. Comunque, la nostra Ferreri, sì, è un prodotto di X Factor, la prima edizione proprio del 2008. E comunque lei avrebbe anche potuto chiamarsi Paperina Arcibalda. Soprattutto Paperina Arcibalda. Ce l'avrebbe fatta comunque, perché ha troppo talento. I go back to... Black, Amy Winehouse, a che proposito si è giudicata, di talento, ti ho detto, si poteva anche chiamare Paperina Arcibalda. No, lei proprio sì. C'è. Comunque, lei si è giudicata ben 5 Grammy Awards nella sua breve ma intensa carriera. Lei è stata sempre amatissima sia dal pubblico che dalla critica, fin dall'album d'esordio, che si intitolava Frank. Frank, magari anche Franky. Comunque, dopo un inizio molto italiano, Franky, siamo arrivati in America, all'estero. E proprio dall'America, nel 2008, arrivano le due più importanti notizie. La prima riguarda quest'uomo. Hello, I'm Barack Obama. Salve, sono Barack Obama. C'è qualcosa che dovete sapere. Questa campagna riguarda voi, le vostre speranze, i vostri sogni, la vostra fame di cambiamento. Ecco perché il 4 novembre del 2008 Barack Hussein Obama viene eletto alla Casa Bianca dopo aver vinto le elezioni contro il repubblicano John McCain. È il primo afroamericano a diventare presidente degli Stati Uniti d'America. Nel febbraio del 2007, ne avevamo parlato, la candidatura ufficiale alla Casa Bianca e poi l'ascesa vincente e irresistibile che lo portano fin qui, fino alla vittoria. Se c'è qualcuno là fuori che ancora dubita che l'America sia un paese in cui tutto è possibile, che ancora si chiede se il sogno dei nostri padri fondatori sia ancora vivo in quest'epoca, che ancora si chiede quale sia la forza della nostra democrazia, beh, stasera ha avuto una risposta. E queste sono le parole di Obama nel suo primo discorso da presidente. Il 20 gennaio del 2009, dopo 8 anni di presidenza Bush, Obama giura come 44esimo presidente degli Stati Uniti. Franky, tu eri in America? Ero in America, ero in metropolitana, stavamo andando tutti verso Times Square. C'era un'atmosfera veramente, veramente elettrizzante. Cioè, pazzesco, eh? Pazzesco. Io invece mi ricordo... Ma come faccio? Ti rendi conto che... presidente uno si chiama Hussein. Hussein, tra l'altro. Cioè, tra Hussein, l'altro. Cioè, io lo trovo geniale. Io mi ricordo la prima pagina, mi sembra fosse l'Unità... con la sua foto e sopra scritto il sogno, e noi l'abbiamo vissuta un po' così, il sogno anche noi da ma qui. Ma lo era anche per noi che eravamo e lì. E poi invece i sogni a volte sono un po' più controversi, anche perché in questo 2008 in America arriva una notizia che è destinata a cambiare la sorte di tutti noi e a ripercuotersi sull'economia mondiale. Infatti la mattina di lunedì 15 settembre del 2008 la banca Lehman Brothers fallisce. Il Dow Jones perde più di 504 punti ed è il crollo più alto dopo quello successivo all'attacco alle Torri Gemelle. Il fallimento della Lehman Brothers ha conseguenze naturalmente sulle borse di tutto il mondo. È la crisi economica che parte dall'America, ma che nel giro di pochissimo assume proporzioni globali. Falliscono grandi banche private e vanno in fumo i risparmi di milioni di piccoli investitori, mentre la disoccupazione tocca dei livelli record. Nel 2016 un film, un bellissimo film, racconta la crisi del 2008. È La grande scommessa. Mentre tutti stappavano bottiglie di champagne, degli outsider videro ciò che nessuno vedeva. L'economia mondiale potrebbe crollare. E lo videro facendo qualcosa a cui nessuno aveva pensato. Osservando. L'intero mercato immobiliare si regge su prestiti a rischio. Non possono durare. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. Mix 24, musica e storia. Su Mix 24 Musica e Storia, siamo nel 2008, io sono ancora Alessandra Fiori e qui... E io sono Franco Schipani, ciao a tutti, bentrovati, ciao Ale. Ciao Franchi, sempre qui. Allora, prima del break abbiamo ascoltato I Kissed a Girl di Katy Perry e dopo, stiamo ascoltando adesso, sì? Beyoncé in If I Were a Boy. Se fossi stato un maschio. Hai capito? Nel 2007 infatti noi abbiamo visto che le girls negli Stati Uniti erano sul piede di guerra. I testi andavano da io sono mia a amore ti amo ma togliti dai piedi. Comunque Franchi, non mi sembra che ci sia un grande armistizio in questo 2008. Assolutamente no, anzi si sono ancora più incattivite. Ma lo diciamo con simpatia però, perché la Perry dice di aver baciato una ragazza. E vabbè. Dice niente di anomalo, insomma, nella rivista Stepping Out. Però lei ha spiegato, ha detto, dice un giorno ero nel ristorante col mio ragazzo e c'era Scarlett Johansson, sì, e lei disse al suo ragazzo: vedi, io con lei ti farei le corna, spero che non ti dispiaccia. Ma figurati se a lui dispiace. Andate invece, pazzi per questa roba. Dici, mamma mia. Ma come sei fantasiosa oggi. Comunque la Beyoncé invece, sì, dice: pensa, se fossi un ragazzo anche solo per un giorno rotolerei fuori dal letto al mattino, infilerei di fretta quello che vorrei mettermi e poi andrei a bere birra con gli amici, andrei in cerca di ragazze se fossi stata un ragazzo. Tu che ne dici? Adesso, secondo te, oltre alla fatica di essere donna, mi metto a pensare, probabilmente farei la stessa cosa comunque. Ecco, alla fine fare la stessa cosa. Già complicato, eh? Sì, già è complicato. Comunque, Franchi, una donna, non una ragazza, il 2 luglio del 2008 viene liberata insieme ad altri 14 ostaggi delle FARC. Il suo nome è Ingrid Betancourt, simbolo della lotta a corruzione e narcotraffico in Colombia. L'ex candidata dei Verdi alle presidenziali del 2002 fu fermata a un posto di blocco il 23 febbraio del 2002 e di lei si erano perse tutte le tracce e poi la sua corsa alle presidenziali quindi era rimasta bloccata fino poi al 2 luglio del 2008, giorno della sua liberazione. Bueno, vamos a ver si me sale la voz porque estoy muy muy emocionada. Acompáñenme primero a darle gracias a Dios primero. Segundo, a todos ustedes que me acompañaron en sus oraciones. La Betancourt ringrazia Dio e tutti coloro che non l'hanno abbandonata in quei lunghi 6 anni di prigionia. E l'altra notizia che ti voglio dare, Frankie, è che il 19 febbraio Fidel Castro rinuncia all'incarico di presidente di Cuba e al suo posto arriva il fratello Raúl. La notizia viene riportata dall'edizione online del quotidiano cubano Granma, l'organo ufficiale del Partito Comunista Cubano. Castro lascia il potere dopo quasi 49 anni. Dal 59 in poi Castro era sempre stato rieletto a Cuba e tocca adesso proprio al fratello annunciare il 25 novembre del 2016 la morte di Fidel, il leader massimo. Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana. Ecco, Frank, insomma, abbiamo un po' anticipato la notizia della morte di Fidel Castro. Ma tu, di solito, invece... Vuoi che ti porti indietro? Sì, perché tu lo fai, che invece... Tiri indietro. E allora, guarda, proprio nel 2008, cara Ale, è anche tempo di revival. Well, you may go to college, you may go to school, you may have a pink Cadillac, but don't you be nobody's fool. And now, baby, come back, come. Come back, baby, I wanna play house with you. And listen, let me tell you, baby, what I'm talking about. To meet a little girl so we can play some house. And now, baby, come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back, and maybe I won't play house with you. All in the house, yeah. Vedi, a volte ritornano Elvis Presley con Baby Let's Play House e poi Rene Grandi con questo indimenticabile brano di Mina. Pensa che il brano di Elvis era del 1955, non si capisce perché ritornano in classifica, da qualche parte tornano. E invece il brano di Mina è del 1966 e pensa che era il 78esimo 45 giri. Grande comunque l'interpretazione di Rene Grandi. Io mi ricordo che quando ci hai raccontato di Frank Sinatra che voleva lanciarla negli Stati Uniti e lei aveva il timore dello star system di Hollywood e dintorni. No, e ne aveva ben d'onde, si potrebbe dire, perché non è la sola che ha rinunciato allo star system americano. Io ricordo per esempio l'esempio di Virna Lisi, che aveva firmato un contratto con la Paramount per fare due film, girare film per loro, perché doveva sostituire, pensa, Marilyn Monroe. E ha detto no? No, a lei è andata, ha fatto un film che si chiamava How to Murder Your Wife, come uccidere vostra moglie, divertentissimo fra l'altro, ed è andato a farlo proprio per, era stato scritto per Marilyn Monroe. Brigitte Bardot ha detto per carità, lei non aveva proprio il coraggio di dire sì. Virna lo ha avuto, è andata, ha avuto successo, però ha detto sai che c'è, a me qui non piace, me ne torno in Italia. E quindi dice no alla fine. E invece c'è una donna che quest'anno dice sì. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que... E naturalmente a lei è Carla. Carla, il primo febbraio, Carla Bruni convola a nozze con il presidente francese Nicolas Sarkozy. Ma adesso voglio parlarvi di un caso di cronaca che interessa tutti e che crea un dibattito lunghissimo in Italia, un dibattito che va avanti per molti anni fino a che la Cassazione nel 2008 prende una decisione che è finale, essendo la Cassazione. Dopo 16 anni di coma vegetativo, a Eluana Englaro possono essere sospesi gli alimenti. Eluana aveva 36 anni ed era in coma dal 1992, dal giorno dell'incidente stradale che aveva avuto appena 20 anni. Dopo la sentenza della Cassazione, dopo l'intervento della Corte d'Appello di Milano che concede ai medici di staccare il sondino che l'alimenta, Eluana può morire. Beppino Englaro, il padre di Eluana, da anni combatteva una battaglia per concedere a sua figlia una dolce morte. Queste le sue parole a caldo. C'è una cosa che vorrebbe dire a Eluana, se potesse. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, dice Beppino Englaro. Il caso va avanti ancora sul piano giudiziario fino al 9 febbraio del 2009, quando Eluana muore. Come sempre, come per Welby o per DJ Fabo, questi diventano casi oltre che giudiziari, mediatici e politici. Per tutti loro si è aperta una discussione feroce all'interno del Parlamento, ma un testo che regoli il fine vita e l'eutanasia nel nostro paese ancora non c'è. Lo sanno tutti che in caso di pericolo si salva solo chi sa volare bene. Quindi se escludi gli aviatori, falchi, nuvole, gli aerei, aquile, angeli, rimani te. Ed io mi chiedo, ora che farai? Che nessuno ti verrà a salvare. Complimenti per la vita da campione. Alla mia età Tiziano Ferro e invece no Laura Pausini. E adesso Franchi ti porto ai successi sportivi. A parte gli europei di calcio in Austria e Svizzera, che non vanno molto bene per noi, vince la Spagna e noi non arriviamo nemmeno sul podio, con però la consolazione di aver perso proprio contro la vincitrice. Bella consolazione. Va bene, Franchi, volevo vedere. Per una volta il lato positivo. Comunque vanno meglio le Olimpiadi di Pechino. Iniziano l'8 agosto, cioè l'8-8. Sai perché? Perché il numero 8 in Cina è sinonimo di prosperità. Comunque noi vinciamo 27 medaglie e 8 ori. 8 e finiamo noni nella classifica generali. Valentina Vezzali, Roberto Cammarelle, Clemente Russo, detto Tatanka, ma anche Federica Pellegrini. 1:55:45, il nuovo record del mondo. E che questo sia contrappasso e riscatto. Esulta Federica e questo Alberto rilancia, deve rilanciare l'attesa. Ecco, Federica Pellegrini, l'abbiamo sentito, vince l'oro nei 200 stile liberi con il nuovo primato mondiale. Ma hai sentito il tono del commentatore? L'ho sentito. Non era gioioso. Sai, ti ricordi le vecchie cose quando c'è gli abbagnali? Ma c'è un motivo, perché la mattina di quello stesso giorno tutti si aspettavano che Federica Pellegrini vincesse nei 100 stile liberi e invece lei non aveva vinto. Allora il pomeriggio dello stesso giorno lei, che all'epoca aveva solo 20 anni, supera la delusione e vince l'oro nei 200 stile liberi, un grandissimo riscatto. Ma sai, dai campioni si aspettano sempre tutti moltissimo, l'impossibile. Comunque c'è un altro italiano invece in questo 2008 che mette a segno un grandissimo colpo. Si volta, vede vuoto quanto basta per pensare che sono 8 mondiali 8. Rossi, attenzione qui, tutti in piedi sul divano. Rossi cede, campione del mondo. Ecco, ovviamente Franchi e Valentino. Che spettacolo. Questo secondo me non te lo sei perso. Lo spettacolo delle motociclette in confronto a quella cosa noiosissima della Formula 1 ormai. Ah, ti piace di più? Ma 100.000 volte. Comunque lui, questo è l'ottavo mondiale che vince. Tu invece di quale mito italiano vuoi parlarmi? Ce n'è uno in questo 2008? No, ce ne sono diversi, però questi due fra tutti. Perché indimenticabile duri senza te. Tutte le cose che farò avranno dentro un po' di te, perché lo so dovunque andrai, in ogni istante resterai indimenticabile. Ci parliamo se vuoi, c'è un dolore che ha un viaggio da fare, che come viene andrà, ci soffio ma non può bastare. Indimenticabile Antonello Venditti con un meraviglioso video girato all'Euro dove Antonello ricorda Pantani e Tenco. Invece ci parliamo da grandi, Eros Ramazzotti, che è stato utilizzato per la colonna sonora del film di Luca Lucini Amore, bugie e calcetto, che è uscito nelle sale con grande successo il 4 aprile. Ecco, ma per miti che si consolidano, alcuni se ne vanno, perché il 26 settembre in Connecticut a 83 anni muore Paul Newman. Hanno trovato Mottola, sbronzo in un cesso della stazione, non ha mai preso quel treno. Non voglio sapere come ha passato la giornata, i soldi? Se li è fatti fregare da due truffatori per la strada. Oggi hai fatto fuori dei soldi che scottano, Hooker, ti serve un amico. Vatti a trovare qualcun altro da incastrare. Ovviamente è la stangata con Paul Newman e Robert Redford. Indimenticabile. È un film del 73 che vince di tutto agli Oscar. Ma restiamo nel cinema di questo 2008, perché dall'estero arrivano The Wrestler, Gran Torino di Clint Eastwood, Revolutionary Road, che poi a distanza di molti, 11 anni, ripropone la coppia del Titanic Winslet DiCaprio, Twilight, il curioso caso di Benjamin Button, ma anche il musical con Meryl Streep, Mamma Mia. Inevitabile. Poi a quel c'è punto il film Sex and the City, che non va bene come la serie, ma dai. Insomma, qualcosa ha fatto. Sì, ma sì, c'era da aspettarsi. C'era insomma. Dopo la serie televisiva, ma che puoi fare di non, più? Niente. Vedi, è stato un film inutile. Dai, diciamo. Inutile, hanno fatto anche il 2, pensa. E poi esce un film che ha questa colonna sonora. Frankie, ed è un grandissimo film, The Millionaire, diretto da Danny Boyle, il regista di Trainspotting, che vince 8 Oscar l'anno successivo, tra cui quello con il miglior film. Ti devo dire la storia, perché la storia è bellissima. È la storia di un ragazzo indiano, Jamal, cresciuto in una baraccopoli di Mumbai, che partecipa alla versione indiana di una specie di Chi vuole essere milionario, e vince. E il film però è fatto con continui flashback, per cui tutta la sua vita gli scorre davanti praticamente, ed è una vita che lui ha vissuto per strada, ma è proprio per strada che vedremo che Jamal ha trovato le risposte a tutte le domande del quiz che lo rendono un vincente, un milionario. Milionario. Ha I'll be waiting, Lenny Kravitz, questo All Summer Long di Kid Rock, che senti questa cosa molto sotto. Eh sì. Ma è una campionatura questa. Perché questa... è un country. Esatto, è un po'. Vedi, vedi. Comunque i due, molto amici loro due, sì. Si vedono spesso lì nel ristorante di Cipriani, West Broadway, dove abitavano. E lui, Kid Rock, quando era un tour, quando veniva, insomma, si incontravano spesso e capitava di vederli. Spessissimo da quelle parti, senza le rispettive fidanzate. Ai. Basta con i gossip. E allora, dato che abbiamo iniziato questa bella selezione musicale, perché no? Continuiamo. Chasing Pavements, Adele, che esordisce proprio nel 2008 con l'album 19. Insomma, bello, è bellissimo, meraviglioso, un capolavoro. Tutti i critici con lei, tutti, ah, è arrivata la nuova star, e avevano ragione perché è veramente grande. E poi i Maroon 5, Bruno Pop, accattivante, però anche loro, attenzione, come Kid Rock, vanno a campionare delle altre cose. Cosa? E in questo caso Every Breath You Take dei Police, che è sempre un brano che fa sempre comodo direi come sì, campionatura. Sì. Franky, ti ho lasciato in sospesa in sospeso col cinema italiano, dove i nostri migliori registi fanno uscire alcuni film, come Dio Comanda di Salvatores e Il Divo, soprattutto Il Divo di Paolo Sorrentino. Bellissimo. Paolo Virzì invece firma un film generazionale. Il tema è quello del precariato. La protagonista è Marta, 24enne siciliana trapiantata a Roma. Laureata con lode in filosofia teoretica, finisce nel mondo dei call center. Perché voi siete persone? Speciali! E fate un lavoro? Speciali! E allora forza ragazze, diciamo buongiorno a questa nuova splendida giornata! Buongiorno! È un robottino multiuso, signora Mortillaro, che esegue 14 funzioni integrate in un solo... Ecco, il film ovviamente è Tutta la vita davanti, il tema è quello del precariato, l'abbiamo detto, Isabella Aragonese, Micaela Ramazzotti, Valerio Mastandrea, Elio Germano, Sabrina Ferilli, Massimo Ghini, il cast, insomma. E poi, a 2 anni dall'uscita del libro, Matteo Garrone firma la regia di Gomorra. È tutta gente che si salva se la mandi perché ci sta mieti. Ho visto come li fai campare. Salvi un operaio a Mestre e uccidi una famiglia a Mondragone. E è così che funziona. Ma non l'ho deciso io. Noi arriviamo a risolvere problemi che hanno creato gli altri. Il cromo, l'amianto, non l'ho creato io. I montagni non me sono mangiati io. Ecco, questa è la scena in cui Franco, ovvero Tony Servillo, insegna al suo allievo Roberto come smaltire i rifiuti tossici, ma Roberto si ribella e lo abbandona. Ecco, il film, lo sappiamo, l'anno dopo andrà agli Oscar a rappresentare l'Italia, ma poi ne parleremo nel 2009. Franchi, ora invece è il momento... È arrivato il momento di Antonella Migliaccio, esatto. Che come al solito ha scelto per noi il brano di chiusura. E esatto. Devo dire che ormai io mi fido ciecamente, l'ho già detto, non mi stanco sempre di ripeterlo. Vabbè. Perché è veramente brava, brava, brava, brava, bella scelta. Anche allora oggi. Adesso ti dico che nel 2008 ha scelto il brano di un gruppo toscano, si è allontanata dalla campagna, è molto strano ma lo ha fatto, perché nel 2008 questo gruppo pubblica il suo quarto album e vince la targa Telco come miglior disco dell'anno. Loro sono i Baustelle e la canzone è Charlie Fa Surf. Noi invece ci vediamo nel 2009. Nel 2009, Alessandra, certo. Al prossimo venerdì. Ciao, ciao a tutti. E ci Fiori. Vediamo da Franco Schifani. E ci Baustelle, vediamo nel Charlie Fa Surf. 2009, ciao. Ciao. Vorrei morire a quest'età, vorrei stare... suona.